My name is Eid Hedelin. I am from Massafriata. Sono Eid Adanin e vengo da Massafriata in un villaggio che è Umm El Khair, dove sono un attivista e un fotografo. In questo villaggio e nella regione di Massafriata in generale stiamo cercando di combattere le demolizioni, l'esproprio delle terre e la violenza dei coloni e dell'esercito che ci affligge e di cui siamo vittime ogni giorno. E noi siamo qua con la delegazione appunto di Massafriata perché vogliamo diffondere le nostre storie, vogliamo parlare di Massafriata e vogliamo che le persone che sono in Italia e che sono amici della Palestina conoscano e sappiano che cosa sta succedendo in quest'area. Per quanto riguarda le forme di resistenza alla violenza dello Stato di Israele, cosa ne pensate dell'utilizzo della violenza e cosa invece ne pensate del valore della non violenza ed eventualmente quali pratiche di non violenza mettete in atto come forma di resistenza? Innanzitutto, quella di Massafriata è da sempre una resistenza non violenta, nonostante l'esercito israeliano sia un esercito che invece fa un uso spropositato della violenza e della forza, noi abbiamo sempre cercato di restare pacifici perché noi siamo persone che rifiutano l'uso della violenza e lo facciamo stando nei nostri campi, continuando a coltivare le nostre terre e principalmente restando dove siamo, organizzando delle manifestazioni pacifiche, ma non crediamo che l'utilizzo della violenza possa essere utile, anzi io penso che in questo modo possiamo davvero mostrare al mondo quanto Israele sia uno stato fascista che utilizza la forza e la violenza di stato continuamente e anche quando questa violenza è diretta contro di noi, quindi anche quando veniamo picchiati, veniamo arrestati, noi comunque rispondiamo in modo pacifico. E io penso che questo sia molto importante perché dimostra al mondo che ci può essere una resistenza pacifica anche in Palestina. Visto che ci troviamo all'interno della Israeli Apartheid Week, volevo chiederti se come delegazione di Massafriata avete in programma altri eventi, altri incontri in Italia o altrove. In secondo luogo, cosa ne pensate appunto dell'esposizione mediatica che può avere una questione come quella palestinese anche al di fuori di settimane come la Israeli Apartheid Week e cosa si potrebbe fare per parlarne di più? Non anybody else in the world know about the Palestinian crisis like the Italian people and the activists who came long years ago. Gli italiani sono comunque solitamente, soprattutto gli attivisti e le persone che sono venute a Massafriata, conoscono bene la situazione palestinese e infatti è anche il motivo per cui noi adesso siamo in Italia a fare questo viaggio. In generale quello che può essere fatto è portare più persone a Massafriata, quindi che anche altri attivisti da altre parti del mondo, magari con altre organizzazioni, vengano sul campo per vedere effettivamente cos'è questa apartheid. Questo sistema di apartheid che sta crescendo e che Israele continua a costruire senza sosta. In questo modo, appunto, più persone vengono, più persone saranno in grado di conoscere e anche di parlare nei propri paesi di quello che sta succedendo a Massafriata e in Palestina in generale. Massafriata and see and witness the apartheid stories by their own.